Radio 24 Reportage. Il coraggio di Lea, di Valentina Furlanetto. Questa è una storia che inizia in Calabria e che finisce a Milano. Inizia con una giovane donna che si innamora dell'uomo sbagliato, finisce con la figlia di quella donna e di quell'uomo che, nascosta al mondo, saluta sua madre. Grazie di cuore di essere venuti oggi. Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo, è solo per il mio bene. E non smetterò mai di ringraziarti. Ciao, mamma. Si raccoglie intorno al tuo passare, siepe di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Questa è la storia di Lea Garofalo, figlia, sorella, compagna di boss dell''Ndrangheta, nata in Calabria, arrivata a Milano, fuggita con la figlia Denise in giro per l'Italia dopo essersi ribellata alla famiglia mafiosa, dopo aver iniziato a testimoniare, a collaborare con i giudici, uccisa a Milano, dove 4 anni dopo, nell'ottobre 2013, è stata commemorata. Siamo in Viale Montello 6, periferia milanese. Qui si trova il Fortino delle Cosche. Gli appartamenti sono del comune, dovrebbero essere assegnati ai cittadini più bisognosi, invece da anni sono occupati dai clan Carvelli, Ceraudo, Toscano, Cosco. Cosco, come Carlo, il compagno di Lea, il padre di Denise. Questi clan gestiscono il palazzo e gli appartamenti, li affittano a italiani, eritrei, somali, fanno affari con i cinesi. Percorrere i corridoi dell'edificio fatiscente dove sono vissute Lea e sua figlia Denise procura un brivido. Qui è stato gestito il business dell'eroina, qui sono stati progettati delitti, anche quello contro Lea Garofalo. A poca distanza dal centro di Milano, dove nel 2009 il sindaco Letizia Moratti si esprimeva così sulla possibilità che in Lombardia e a Milano ci fosse la mafia. È un modo di descrivere il nostro territorio che non corrisponde all'anima del nostro territorio. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Via Montello 6, quindi, qui vicino a un commissariato, Denise aveva denunciato la scomparsa di sua madre Lea. Era il novembre 2009, da 7 anni Denise e Lea, decisa a farla finita con quella vita, avevano lasciato Carlo Cosco. Questa è la storia come la racconta un pentito durante il processo in appello a Milano. Carlo Cosco soprattutto è un uomo molto pericoloso, molto influente e ha molta amicizia. Diciamo che Carlo Cosco non è che lo decide lui di uccidere Lea Garofalo. Questo è un delitto imposto dall''Ndrangheta. Carlo Cosco praticamente ha il benestare delle famiglie calabresi, siccome diciamo nell''Ndrangheta ci sono delle regole. Lea Garofalo, abbandonando il marito in carcere, porta una macchia d'onore al fratello e anche a Carlo Cosco. Nei vostri quartieri. Ora sappiamo che Lea, 4 anni fa, venne sequestrata, uccisa, bruciata, i suoi resti nascosti in un tombino proprio da quel suo ex compagno e padre di sua figlia. È stata Denise in tribunale a riconoscere quel che restava di sua madre. E riconosce in questi resti di gioielli un po' bruciati? Sì, sono questi. Ecco, adesso sono sicura che sono questi qua. Ne è certa? Sì. Carlo Cosco è stato condannato nel maggio scorso all'ergastolo per l'assassinio della madre di sua figlia. Milano si è costituita parte civile e ha dedicato a Lea Garofalo una commemorazione solenne. Una folla di milanesi ha invaso Piazza Beccaria, donne che abbracciavano fiori colorati, bambini, signori commossi. Noi siamo il presidio Lea Garofalo, siamo ragazzi di Libera, studenti, e abbiamo seguito la storia di Lea un pochino fin dall'inizio, andando ai processi, portando persone, portando classi, soprattutto per stare insieme a Denise, cioè essere un pochino anche, darle un pochino di forza, visto che in tribunale non c'era nessuno per lei, noi abbiamo cercato di essere un pochino in piccola parte la sua forza, quindi è far conoscere la storia di Lea. Ma guarda, io sono a Milano soltanto per oggi, sapevo che c'erano i funerali e siamo venuti a venire a dare un saluto, insomma. Beh, non è una storia che passa inosservata, del coraggio di questa donna che ha fatto quello che a volte uno vorrebbe che fosse più, tra virgolette, normale. Io, lei è di Milano? Sì, io un giorno sono capitata in tribunale, io non ce l'ho fatta entrare a vedere nella gabbia quegli assassini. Credo che sia importante ricordare la storia di Lea come la storia di tutte le donne che hanno combattuto contro le mafie, contro l'andrangheta. Beh, ascoltare la voce della figlia sicuramente è il culmine di una giornata di emozione, però senza angoscia perché un po' di verità e un po' di giustizia è stata fatta. Milano ha risposto. Il fondatore di Libera, Don Ciotti, è sempre stato a fianco di Lea Garofalo, testimone di giustizia e non pentita, perché i pentiti sono coloro che compiono delitti e poi appunto collaborano. Lea, invece, non era colpevole di nulla. Siamo tutti calabresi oggi, ha detto il sindaco di Milano, Pisapia, anche se sulla scarna presenza dei compaesani di Lea si è molto parlato. Il sindaco di Petilia, Policastro, però c'era. Abbiamo avuto 35-40 adesioni e non erano poche, però portare due pullman, un pullman dalla Calabria a qua, sono 1500 chilometri, le famiglie vanno organizzate, perciò è da sfatare questa cosa qua. Petilia aveva risposto bene, anzi benissimo. Non è una città omertosa Petilia, state tranquille, lo dimostreremo con i fatti andando avanti. Io ho chiamato il sindaco Pisapia dicendo che Petilia voleva compartecipare a questa celebrazione dei funerali di Lea Garofalo. Non abbiamo paura a difendere questa donna, il coraggio di questa donna lo porteremo più in alto possibile. È una donna che ha dimostrato di avere il coraggio, per non dire altro, è una donna che ha pagato con la vita il suo coraggio. Fra la gente anche la sorella di Lea Garofalo, Marisa. Beh, sono passati 4 anni, ma noi non abbiamo mai dimenticato mia sorella, anzi io personalmente mi sto impegnando, le mie battaglie sono quelle di portare avanti l'iniziativa di Lea, il grande coraggio che mia sorella ha avuto, perché voglio che Lea non venga dimenticata assolutamente, quindi deve essere un esempio per tutto il paese. Denise, come ben sapete tutti, vive sotto protezione. Noi non conduciamo, io come sorella di Lea, non conduciamo più una vita normale, non si vive più la quotidianità, perché a noi ci hanno distrutto tutto, ci hanno distrutto la famiglia. Io sono l'unica persona rimasta della famiglia di Denise. Lei ha voluto oggi essere qui? Sì, assolutamente. Colgo sempre l'occasione, nella giornata di oggi, innanzitutto di ringraziare il sindaco di Milano, Pisapia, il nostro sindaco del comune di Petilia Policastro, che per la prima volta è qui nella piazza a Milano con il gonfalone di Petilia Policastro. Però c'è molta rabbia dentro di me, perché si poteva evitare la morte di mia sorella, quindi le istituzioni in quel periodo sono state assente. Con la protezione? Non solo con la protezione, perché mia sorella è stata tolta diverse volte dal programma di protezione e poi i trattamenti che ha avuto, perché ti mettono nel programma di protezione, però molto spesso vieni isolata, vieni ignorata da tutti, e anche l'isolamento e l'indifferenza comunque uccidono, perché mia sorella non era più la stessa, era una persona spenta, e di solito lei era molto allegra, sempre sorridente, però non aveva più quella voglia di una volta, perché era veramente spenta. Io oggi sono qui, però so che in realtà di mia sorella non c'è nulla, perché il suo corpo è stato distrutto. È un funerale, come possiamo dire, simbolico. E questo mi addolora tantissimo, sapere che effettivamente il corpo di mia sorella è stato distrutto molto prima. E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siete di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso. Milano si è inchinata alla donna che ha detto sento, vedo, parlo. Milano, dove è stato chiuso il primo cantiere per mafia e dove il comune dell'Interland Sedriano è stato sciolto per lo stesso motivo. Lea Garofalo, uccisa quindi dalla mafia, ma anche dall'indifferenza, dice la sorella. Non a caso la figlia Denise ha voluto che venisse letta in piazza una lettera di sua madre al capo dello Stato, Giorgio Napolitano. «Presidente, sono una madre. Le chiedo aiuto», scriveva Lea Garofalo. Quando è stata uccisa, non aveva ancora 40 anni. «Mio messia, femmine un giorno e poi madri per sempre nella stagione». Che stagioni non sente. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso. Da quando abbiamo iniziato l'azione di governo abbiamo tratto in arresto mediamente ogni giorno 8 mafiosi, dall'inizio del governo Berlusconi fino a ieri. Perché noi con l'andrangheta non c'entriamo un cazzo e non vogliamo avere niente a che fare con gente che piglia i voti da quelle parti. E quindi domani... Convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte per quanto voi vi crediate assolti. Siete per sempre coinvolti per quanto voi vi crediate assolti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.